figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata, buona Pasqua a tutti da Valentina Furlanetto. L'avrete riconosciuta, la canzone in sottofondo ci porta all'Aquila, dove domani sera una fiaccolata ricorderà le 307 vittime del sisma del 6 aprile 2009. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. Un evento che ha mobilitato la società civile, e questa canzone ne è un chiaro esempio, ma anche moltissimi volontari che arrivarono all'Aquila da tutte le parti d'Italia. Allora sentiamo il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, che ci riassume cosa è stato fatto in questi 12 mesi. Si è raggiunta la cifra di circa 12.000 volontari e 200 operatori della Croce Rossa Italiana che si sono alternati sui luoghi del cratere, e ancora oggi siamo presenti ad Avezzano in collaborazione con la Protezione Civile nel luogo di ripiegamento di tutti i materiali che sono stati utilizzati sui luoghi del terremoto. Domani è già qui, domani è già qui. Estraggo un foglio della risma nascosto, scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani. A un anno dal terremoto le donazioni degli italiani per l'Abruzzo hanno raggiunto la cifra di 11,3 milioni di euro, giusto? Sì, è una cifra record, segno di un rinnovato patto di fiducia con gli italiani, anche con i tantissimi italiani all'estero. E a noi questo patto, questa responsabilità ha fatto sì che fin dai primi momenti abbiamo cercato di render conto di come venivano spese le somme sul nostro. Ecco, cerchiamo di spiegarlo ai nostri ascoltatori. Abbiamo speso oltre 5 milioni per la realizzazione di Onna, poi abbiamo contribuito in maniera importante a San Gregorio. Anche lì è stato costruito il nuovo villaggio grazie alla collaborazione della Croce Rossa, l'ambulatorio di Collemaggio, l'ambulatorio di Barrete, l'ambulatorio e la sala comunale, il centro civico a Navelli, c'è poi questo centro di riabilitazione pediatrica fatto in collaborazione con la ASL dell'Aquila. Insomma, sono tantissime le realizzazioni che sono state costruite grazie alla fiducia degli italiani, e poi continua il supporto psicosociale. Stanno ancora in situazione emotiva difficile? Paradossalmente la tendopoli era un momento anche di protezione forte, perché c'era una comunità che tutto sommato viveva insieme. Oggi, tornando negli alloggi, le persone si devono misurare con la solitudine e con quello che hanno perso. Siamo così soli. Non siamo così soli, non siamo così soli, siamo così soli, siamo così soli. Che cosa resta invece da fare? Sicuramente c'è tutta la grande opera di ricostruzione che adesso gli enti locali dovranno portare a termine, e poi far ripartire il tessuto socio-economico. Non ci dimentichiamo che nel centro economico dell'Aquila c'erano oltre 1.000 esercizi commerciali. E queste sono persone che hanno perduto il posto di lavoro, in questo momento è un tessuto socio-economico lacerato, e quindi occorre continuare a lavorare per far ripartire bene. Si è risposto in maniera straordinariamente importante, adesso si tratta di fare gli altri passi, che però insomma sono un po' più complessi. Ma domani, domani, domani lo so. Lo so che si passa il confine. Molto resta dunque ancora da fare. Ne è un esempio il fatto che dei 1700 monumenti artistici seriamente lesionati dal sisma, 44 furono inseriti, ve lo ricorderete, in un elenco di edifici da far adottare ai partecipanti al G8, che erano corsi all'Aquila nel luglio 2009, quando ancora gran parte della popolazione viveva nelle tendopoli allestite intorno alla città. I leader del G8 si fecero fotografare tra le macerie, promisero di partecipare alla ricostruzione. Allo stato attuale, solo per 12 monumenti sono arrivati impegni concreti da parte di altri paesi. Come spesso ci accade, vogliamo adesso dare voce anche a una piccola organizzazione sul territorio. Si tratta di NutriAid, una piccola onlus di Torino che si occupa da 15 anni di malnutrizione infantile in Africa. Il suo fondatore è un pediatra e si chiama Costanzo Bellando. Ci sono quasi 10 milioni di bambini che ogni anno muoiono nel mondo per cause legate alla malnutrizione. È un problema grosso perché appunto comporta un problema sia di tipo sanitario che un problema di tipo strettamente alimentare. In più c'è tutta la componente sociale, perché il bambino che muore di fame è un bambino che vive in un contesto di povertà gravissima, e quindi tutto quello che può essere il discorso abitativo, lavorativo, la fornitura di acqua, l'igiene, tutto quanto è chiaramente coinvolto. Voi andate in Africa in quali paesi? Ma il progetto storico è in Ruanda. In Ruanda è un paese che aveva già avuto una serie di problemi gravissimi di povertà, di malnutrizione, di malattie e così via. E nel 94 c'è stata questa tragedia di questi 3 mesi di eccidi che hanno portato dei problemi sanitari e sociali che hanno peggiorato assolutamente la situazione. Inizialmente avevamo un ospedale che adesso abbiamo regalato al servizio sanitario ruandese, dove adesso appunto lavorano medici ruandesi soltanto a dipendenza del servizio sanitario ruandese, e noi ci occupiamo ancora di bambini che erano stati seguiti in questo ospedale con un progetto di stanza, con una serie di lavori appunto finalizzati a migliorare le loro condizioni economiche. Oltre che in Ruanda siete anche in altri paesi? Abbiamo un progetto che funziona in Senegal da un paio d'anni, abbiamo una sede inaugurata di recente per un dispensario a sud di Dakar, in un posto che si chiama Yen, dove ci occupiamo appunto di malnutrizione, in questo caso malnutrizione un po' meno grave rispetto a Ruanda, una malnutrizione moderata, però su un spettro di popolazione molto molto ampio. Poi c'è un progetto in Madagascar che sta partendo in questi giorni, e penso che appunto dovrei essere in Madagascar nelle prossime settimane o se no subito dopo l'estate per fare il corso di formazione per il personale che lavora nel nostro centro. La nostra filosofia appunto è proprio di cercare di formare il personale locale in modo che nell'arco dei 3 anni previsti per un progetto possano camminare poi con le loro gambe, e noi possiamo poi intervenire in altri centri, aprendo centri nuovi appunto per autonomizzare il più possibile i locali. Perché un medico come lei non ha dato il suo tempo, la sua disponibilità a un'associazione come Medici Senza Frontiere, Emergency, che si occupa di questo tipo di volontariato, e invece ha fondato una nuova associazione? Ma come sovente capita, per vie strane sono entrato in contatto con un'infermiera che aveva aperto un centro in Ruanda, e io ho sogno dall'infanzia di occuparmi di bambini in Africa, e appunto fare medicina poi è venuto un po' come conseguenza di questo vecchio sogno, e si è realizzato appunto con questo ospedale ruandese. Venendo a contatto con una situazione piccola che aveva bisogno di essere sostenuta, se no rischiava la chiusura, l'ho considerato un po' come un segnale, una cosa che si poteva fare nell'immediato senza avere poi impegni con organizzazioni che magari ti chiedono anche degli impegni magari di missioni all'estero di 6 mesi, di 1 anno, 2 anni, che avendo io lavoro e famiglia erano in quel momento incompatibili. Mi racconta un episodio che l'ha colpita in qualche maniera di qualche sua missione in Africa? Ma racconti ce ne sarebbero mille. Io uno dei ricordi più belli che ho e di un bambino che ho conosciuto nel 96, quindi il genocidio era finito da 1 anno e mezzo, parliamo del Ruanda, questo bambino che si chiama Karangwa, che era stato visto uccidere padre e madre davanti ai suoi occhi, e quindi chiaramente la cosa aveva creato dei traumi a livello psichico sicuramente indelebili. E mi ricordo una sera appunto l'ho visitato e gli ho controllato, mi hanno portato nella sala medica perché stava piangendo disperato con dei dolori violentissimi alla pancia. Io l'ho controllato e mi è sembrato che non ci fosse nulla di organico, e ho pensato appunto, visto il suo vissuto, che potesse essere una crisi un po' di ansia e di panico, e ho pensato cosa avrei fatto con i miei figli che più o meno all'epoca avevano la sua età. Me lo sono messo pancia contro pancia, ho cominciato a cullarlo e gli ho cantato Barun Litrun, che è una canzone piemontese del 700, che è una musica molto melodica, molto ritmata, molto anenia, che usavo con i miei figli per addormentarli. E lui dopo 30 secondi di canto si è addormentato, ha dormito 12 ore di fila. Come fa? Andrin Turin, aie di conta, aie di conte, dele daime. In chiusura, un'iniziativa della casa editrice Minimum Fax, che pubblica, per capirci, i mitici libri di Raymond Carver. Minimum Fax vuole offrire ai libri una seconda vita. Sentiamo l'editore Marco Cassini. È il risultato di un pensiero che forse sotto sotto affligge o quantomeno un piccolo tarlo per ogni editore. Per le più svariate ragioni, periodicamente gli editori si trovano a dover mandare al macero dei libri. che siano semplicemente delle copie fallate e rovinate, che siano delle vecchie edizioni andate fuori catalogo, che siano libri di cui sono scaduti i diritti, o anche, come pure ai noi succede, che siano dei libri non più tanto vendibili per questioni di mercato, diciamo per risposta del mercato al titolo, bisogna far spazio nel magazzino e quindi macerare dei libri, che è una delle grandissime sofferenze che ogni editore ha. Per questo, anche se tutte le volte che abbiamo proceduto al macero l'abbiamo comunque fatto con un occhio e con una coscienza rivolta all'ambiente, abbiamo pensato comunque di dare una seconda chance ai libri, offrire una possibilità ulteriore alla vita del libro in quella forma. Il libro acquista una nuova forma, una nuova vita. E cosa diventa? Muove. Può diventare un oggetto di design, per esempio, perché in occasione del Salone del Mobile che si terrà di Milano nel mese di aprile, lanceremo un bando per un concorso rivolto a giovani designer che saranno invitati a progettare degli oggetti di design senza alcun limite alla fantasia, ovviamente, che siano realizzati a partire da libri. Libri sia intesi come carta, quindi libri già vengono poi smembrati, o anche libro che diventa come, diciamo, un piccolo mattoncino, un'unità di misura con cui costruire degli oggetti. C'è già tra l'altro un'installazione che è stata creata, no? Sì, un giardino di carta fatto di tante rose, appunto prodotte, ottenute dalla lavorazione delle pagine di alcuni nostri libri. L'artista milanese Alice Visin a Milano, proprio nei giorni del Salone del Mobile, presenterà nello studio approntato ad hoc un giardino fatto di carta, fatto di rose. Poi c'è un'altra iniziativa, e cioè un mercato biologico del libro, è così? Sì, sempre a Milano e sempre negli stessi giorni, creeremo un piccolo spazio di incontro, di scambio, quasi di baratto, sempre nell'ottica del riuso e del riciclo, in cui nell'ambito dell'iniziativa Public Design Festival, organizzata da esterni, Minimum Fax e Rebook saranno ospitati, avremo una bilancia e ognuno potrà venire a portare un chilo, per esempio, di libri di cui vuole disfarsi, in cambio riceverà pari peso in libri Minimum Fax. Tutti i libri che daremo noi di Minimum Fax ovviamente avranno libera circolazione tra i lettori, quelli che riceveremo li doneremo poi in beneficenza a scuole, biblioteche, carceri e istituti vari. E per questa puntata è tutto, io vi rinnovo l'appuntamento per domenica prossima, sempre 14:15 sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da Valentina Furlanetto l'augurio di un buon proseguimento di giornata.